24 mattino, l'Italia si desta, di Alessandro Milan. Ci siamo, eccoci qui, sono le 6:32 minuti, bentrovati. Relax. Bentrovati, eccoci qua alle 6:32 minuti con, l'avete sentita, la voce di Mario Monti. Cos'è che ci dice? But please relax. Eccoci. Prendetevela con calma, ovviamente. Noi siamo pronti ad aprire il nostro bar, però il nostro... La nostra saracinesca con la nostra Nicole, il caffè volentieri a tutti quanti, che offre il caffè come sempre a Maria Di Nolfi, ben ritrovato, buongiorno. Buongiorno, il Partito Democratico. E saluto anche Bimbo Alieno, ben ritrovato, eccoci qua. Bimbo Alieno, buongiorno. Buongiorno a tutti. Da dove ci parla? Ecco, con questa voce arriva sempre lui pacato. Bimbo Alieno, dovete sapere, col suo blog è diventato, si può dire, consulente? No, beh, fonte. Contributor. Contributor, consulente, no, perché sennò poi subito dire ah, mi pagano, prende i soldi. Cioè, contributor di chi? Dici tutto. Ma guarda, è stata una cosa molto emozionante perché qualche settimana fa mi ha contattato l'OCSE. L'OCSE, avete capito? Chiedendomi, quindi l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico, chiedendomi un contributo, un articolo per contribuire al loro progetto del Better Life Index, che è un progetto molto interessante, questo indice che loro hanno sviluppato per misurare la qualità di vita di un paese in modo alternativo al Bill. Il BLI praticamente. BLI all'inglese, Bill. Sì, dunque c'è questo indice molto, molto carino, composto da 11 elementi che vengono misurati con punteggi da 1 a 5 e sul loro sito tra l'altro c'è anche la possibilità di ipotizzare quali sono le preferenze che si vogliono assegnare ai vari sì, alle varie voci e scoprire in quali paesi del mondo si vive meglio secondo il proprio parametro. Vabbè, ma tra poco magari ne approfondiremo questa cosa e ne parleremo. Allora io però vorrei subito coinvolgere Mario Di Nolfi, non è che ti voglio subito coinvolgere su Berlusconi, sarebbe semplice. No, alle 6:34 non è che ti voglio rovinare la mattinata così, ma tra poco ci arriveremo. Prima ti voglio coinvolgere su un'altra cosa, una cosa avvenuta ieri, magari passata in sordina, magari non è sulle prime pagine dei giornali, ma ieri a Predappio, e tu sai già dove vogliamo arrivare, a Predappio si sono riuniti dei simpaticoni che hanno ricordato i 90 anni della marcia su Roma. Camerati caduti della Repubblica Sociale Italiana! Presente! E per Benito Mussolini! Eccoci qua, questo è il servizio che l'inviato di Corriere.it Domenico Affinito ha fatto. Senti Mario, c'è anche un prete. Siamo qui a dirgli Duce hai ragione. Un prete che parla, Duce hai ragione. Allora, ti diamo la grazia di capire le idee che ha Mussolini e di seguirlo. Primo mistero. Padre nostro che sei nel cielo, sia santo. E via, il rosario. Ora Mario, qui c'è poco da ridere ovviamente, perché la questione, ieri ho visto che ne parlavano anche in onda, il titolo era Tornano i fascisti col punto di domanda. Allora, come interpretare questa vicenda? Rientra nel colore, nel costume, nel certa... Guarda, a Predappio c'è un rito sostanzialmente abbastanza consolidato, ogni anno in varie date, simbolo, insomma succede questa che a me pare poco più di una carnevalata. Mi preoccupa molto invece il rigurgito neofascista, questo è un tema interessantissimo. Lo vedo molto più preoccupante nei raid all'interno delle scuole fatte dai giovanissimi. A Roma abbiamo vissuto la settimana scorsa addirittura 3 raid in 3 licei romani, incappucciati, molto con i bastoni, entrando con i fumogeni nelle scuole, gridando viva il Duce. Ecco, quel tipo di rigurgito lì mi preoccupa molto, al di là della carnevalata di Predappio che tutti gli anni più o meno viene messa in scena in più date, lì c'è addirittura un business, insomma io a Predappio sono stato, La cittadina vive di un business costruito intorno al fatto che lì c'è la tomba di Mussolini, insomma. Vabbè, chiaro, sostanzialmente che... è questa, è quasi la ragione commerciale, vorrei dire. Invece il fatto del ricurgito neofascista è estremamente interessante, per fortuna credo in Italia meno preoccupante che in altri luoghi. Dobbiamo sapere che in tutta Europa c'è un'avanzata fortissima delle destre estreme, proprio di stampo neofascista e neonazista, in Grecia sappiamo, no, del movimento La Onda, che insomma ha un consenso molto significativo. Ovviamente la crisi aggrava la pericolosità di queste condizioni. In Italia abbiamo una condizione un po' diversa, perché tradizionalmente ormai il voto di protesta finisce in altri luoghi, per decenni è finito nella Lega, adesso sta finendo nel 5 Stelle, il voto, diciamo, di protesta estrema antisistema e per certi versi disinnescata questa miccia. Però bisogna stare molto attenti, ovviamente, perché su questo un minimo di coscienza, di cognizione storica, di capire cosa significa fascismo in questo paese. Insomma, però hai paragonato, hai detto il voto di protesta prima, adesso al Movimento 5 Stelle, guarda che tuonano io già. Sono convinto che Lega e 5 Stelle abbiano una stessa base sociale, le stesse motivazioni sostanzialmente. Ho sempre teorizzato che la Lega nasce da un bisogno territoriale, che era quello del Nord, mentre 5 Stelle è un movimento che ha anche esso una radice territoriale, sì. Solo che la radice virtuale della rete, che è il nuovo grande territorio della politica. Questa presenza, attenti, oggi c'è un, visto che siamo di mattina, forse siamo i primi a dare la notizia, c'è un exit poll su Palermo che mette, insomma, grande attenzione a chi fa politica, perché il primo partito è Beppe Grillo, pare il Movimento 5 Stelle. Se sono veri dati del genere, viene scartavetrato l'equilibrio politico italiano. Beh, ma era cioè un barlume di possibilità c'era, però è vero, c'è, cioè, questo primo exit poll nel palermitano, perché in Sicilia aprono le urne alle 8 e iniziano a fare lo spoglio alle 8, però c'è un primo exit poll su Palermo non ufficiale, sul palermitano, che dà appunto al 27% come primo partito e quindi come primo candidato Cancelleri, questo è il Movimento 5 Stelle. Di comunque, insomma, alle 6:39 adesso dobbiamo parlare di Berlusconi. Qua abbiamo tirato un po' in lungo fino a quest'ora, ma adesso io, prendendola dall'Europa, che così magari Bimbo Alieno ci dà uno sguardo europeo, temi che quello che è successo all'ESMO sabato con questa conferenza di Berlusconi, che ha detto ritorno in campo, no, comunque non lascio, abbia o possa avere strascichi, perché insomma ha detto anche qualcosa sulla Merkel e Sarkozy, non proprio simpaticissimo, Berlusconi. Oggi che cosa succede? Le borse stanno a guardare queste cose, per esempio? Lo spread ci controlla oppure no? Bimbo Alieno. Ma allora, vabbè, lo spread, diciamo, è una conseguenza. Oggi io so che avrò una giornatina pesantina, perché al di là del dire torno in campo, ma soprattutto l'eventuale stacco alla spina al governo Monti è una cosa che non credo proprio che ai mercati piacerà, e quindi diciamo che dovrò premunirmi e agire prima possibile, lo spread di conseguenza poi. Cioè la minaccia soprattutto al governo Monti, al dire faccio cadere il governo Monti, che può mettere in fibrillazione i mercati. Insomma, tre giorni prima dice che potrebbe essere come dire il nuovo portavoce del centrodestra, tre giorni dopo bisogna staccare la spina perché fa politiche recessive. Quindi questo atteggiamento ondivago del leader del primo partito rischia di mettere veramente a repentaglio la tenuta di un governo che comunque ai mercati vuoi non vuoi piace, e quindi diciamo che l'intervento sui mercati da parte di chi opera deve prendere in considerazione le mosse cautelative, diciamo. Sì, però io anche questa cosa, sapete cosa ha detto Mario Draghi al Der Spiegel? Oggi Repubblica mette questa intervista, ha detto questo: sono favorevolissimo a un super commissario che dia che possa mettere veti sui bilanci nazionali e controlli i bilanci nazionali. Ma qui Adinolfi, ma non votiamo più, cioè ci sta dicendo fate pure quello che volete, tanto vi controlliamo noi, facciamo tutto noi. Ma voglio dire, va bene tutto così, per carità, è giusto, i parametri, le riforme, ma qua ci stanno togliendo tutto. È la campagna elettorale che si apre adesso, ed è Berlusconi che è intuitivo, l'ha capito. Adesso la campagna è Europa sì, Europa no. Questa è di fatto la campagna. Ci sono dei movimenti che dicono noi l'Europa ci deve lasciar perdere, lo dice Berlusconi, che ha questo rigurgito anche quasi personalistico, il sorrisino di Merkel e Sarkozy mi ha reso non credibile. Forse sei stato non credibile e quindi ti sei beccato il sorrisino di Merkel e Sarkozy, questa è la mia impressione. Poi c'è la Lega, che sappiamo avere un'attitudine completamente anti-europea. Poi c'è Grillo, che spesso dice facciamo un referendum per decidere se vogliamo stare nell'euro o no, e che il blocco degli anti-europei è questo. Poi siamo noi poverini, diciamo così, che in Parlamento abbiamo votato una serie di provvedimenti. Io non è che voto per caso o perché mi sbaglio o perché me lo ordina il partito, sì, il fiscal compact. Allora, quando io voto il fiscal compact, io faccio una scelta che consegna questo paese a 20 anni di sacrifici, ma per fare cosa? Perché abbiamo 2.000 miliardi di debito, da cui se non rientriamo questo paese non si sì. salva più. No, ma per carità, non ma questo sì. più. Però allora, cioè qui bisogna capire... Da soli voglio dire questo, da soli abbiamo fatto il debito. Con l'Europa forse riusciamo a mettere un attimo la macchina indietro. Io l'Europa me la tengo, diciamo. No, ma per carità sì, però bimbo alieno, c'è un equilibrio, l'Europa sì, ma per carità io non sto dicendo che bisogna sforare i parametri, non fare le riforme che l'Europa ci chiede e fare come vogliamo che poi la barca affonda. Però ci deve essere un equilibrio su quello che dobbiamo fare, sulla sovranità anche nazionale da mantenere e su quello che invece l'Europa ci impone di fare o no. Sì, ma io la metterei anche sulla sovranità europea da guadagnare, no? Cioè ogni paese confluisce un pezzo della propria sovranità ad una struttura collettiva e noi dobbiamo pretendere come cittadini il peso del nostro voto che debba contare di più negli organismi europei, che in questo momento sono lontanissimi da noi perché ci sono una serie di passaggi. Perché è così, l'Europa la vediamo una roba no, un po' eterea, lontana, quella che ci impone la lunghezza dei cetrioli o delle banane, per il resto no. Esatto. Intanto sapete Berlusconi dove se ne va? Ha detto ciao a tutti, domani si riuniscono per stabilire le regole delle primarie e Mario, lui che fa? Vado in Kenya, me ne vado fino a domenica da Briatore e pare che abbia detto sono problemi vostri le primarie, arrangiatevi voi. No, questo vabbè è cronaca, Berlusconi se ne va in Kenya perché finalmente glielo dovete spiegare che con questo clima può solo presentare le dimissioni. Io so che ha detto in riservata sede, mi ha fucilato alle spalle. Chi? Alfano? Alfano. Ah, e come fai a sapere questa cosa? Da 20 anni conosco Angelo Alfano, ma poi insomma un po' dentro a questo ambiente ci bazzi, come si dice. Allora, Alfano sicuramente non è contento, questo è qua, è chiaro, no? Questo quadro di Berlusconi che un giorno dice una cosa, un giorno dice un'altra, poi va in conferenza stampa sostanzialmente delegittima e sulle primarie dice giocate voi, tanto poi dopo conto solo io, e questo è quello che dice Berlusconi andando in Kenya, voi fate quello che vi pare, certo. Voi il dominus della situazione, sì, come io. Dire sì fate le primarie, belle le primarie, fatele. Io questo quadro, io fossi Angelino Alfano andrei in conferenza stampa e direi carissimi, grazie del giocherello, questa è la fantomatica segreteria del PDL, la riconsegno e mi organizzo per fare politica, magari anche per rottamare Berlusconi, perché il clima può essere anche questo. Ora nel paese sta passando un'idea, forse grazie all'attività di Matteo Renzi, per cui alcune maschere del passato devono essere consegnate alla storia, diciamo. Sì, sì. Secondo me quella di Berlusconi è proprio la maschera in assoluto. No, comunque l'idea è bellissima, cioè fate le primarie, fa bellissime, fate le primarie. Io scusate, vado in Kenya qualche giorno perché ho un attimo da Briatore. Noi andiamo a sentire le informazioni sul traffico. 24 mattino. Perché non si fa nell'immediato un decreto dove questi parlamentari, tutti quelli che ci sono, vanno a prendere solamente 1.000 euro al mese? Tutto qua. A vita ce n'è solo uno, il Papa. Gli altri devono andare a casa. Sono Giuseppe, sono le 7 di mattina, sto guidando il furgone da oltre un'ora perché devo lavorare oltre i 40 anni. Ora sento dire da lei che vogliono far saltare la legge di stabilità e quella che taglia i finanziamenti ai politici. Almeno il diritto di sputargli addosso è spregio, quando li vediamo, lo possiamo fare? Buongiorno Alessandro, ti dico una buona notizia, almeno per me. Questa notte sono diventata nonna di Alice da mio figlio Alessandro. Almeno ho un motivo per essere felice e non pensare a questi sozzi di politici. Vorrei proprio avere l'indirizzo dove andare a comprare i forconi in Sicilia. Me lo può dare per cortesia? Grazie. Vabbè, il clima è questo. Mario Adinolfi dalla nostra segreteria telefonica. Lo conosco, è un clima... No, perché Mario Adinolfi è parlamentare del Partito Democratico. Quindi... Da 5 mesi e mi becco, come dire, i 50 anni di disastro. Ma me li prendo. Mi prendo la critica, so che quando si va a pensare bisogna spiegare. Però voglio dire a chi chiede l'indirizzo dei forconi, il vostro forcone è il voto. Ricordatevi che avete questo bello strumento. La cosa che mi spaventa di più è che in Sicilia, Alessandro, ha votato il 47% degli aventi diritto. È vero, minoranza. Meno della metà. Questa cosa che io so che ai politici, diciamo, tradizionali in realtà non spaventa moltissimo. Uh-huh. A me, che non sono un politico tradizionale, un pochino mi preoccupa. Perché se cominciamo ad avere percentuali di affluenza al voto al 47%, vuol dire che la legittimazione poi dei leader eletti diventa poverissima. Pensiamo addirittura se poi fossimo eletti con le liste bloccate, che cavolo potrebbe succedere la prossima elezione. Certo. Allora sentiamo Berlusconi, che era la telefonata di sabato, credo, al TG5, sentite. Io mi sento obbligato a restare in campo per riformare il pianeta giustizia, perché ad altri cittadini non capiti quello che sta capitando a me. Ecco, questo ha detto Bimbo Alieno, Bimbo Alieno, Berlusconi va in Kenya, Berlusconi, e ridere, chissà che penserà Berlusconi. Ma guarda Alessandro, io ti ringrazio di questo spazio che mi stai lasciando, volevo soltanto così una battuta veloce, ricordare quanto mi piace questa trasmissione, perché guarda, ci sono due cose che a me piace fare al mattino presto. La seconda è ascoltare la tua trasmissione. Sei fuori. Te lo faccio dire da Briatore, sei fuori. E questo Bimbo Alieno, vabbè, fa anche l'imitazione di Silvio. Ma altro che Bill qua, Bimbo Alieno, sei ritornato? Sì. Sì. Altro che Bill qua. Ma cos'è sta storia del Bill? No, io so che in Francia utilizzano molto questo concetto del Bill, no? Sono un po' più avanti questi francesi, sempre più avanti. Cioè usare dei parametri diversi da quelli del PIL. Per esempio, quali sono tre parametri che entrano nel Bill per misurare questo benessere in modo diverso? Ma per esempio la proporzione tra ore di lavoro e tempo libero? Piuttosto che il livello dell'educazione, quindi la qualità evidentemente dell'educazione, piuttosto che, non so, la sicurezza o la salute pubblica, il reddito medio, che questo se vuoi avvicina anche un po' al discorso PIL, però come dire, c'è anche la parte economica, non è che è soltanto filosofia, no? No, ma è chiaro, le cose che dovrebbero essere basilari, considerate, no, per giudicare il prodotto. Beh, no, il PIL chiaramente è un'espressione numerica ed è solo determinato da valori economici. Posso fare un ringraziamento velocissimo alla persona che ha tradotto il mio articolo e gli ha permesso di arrivare lassù, che è Sara Taghi, che tra l'altro conoscete. Siamo alle dediche come nelle radio anni 70, no? Vuoi dedicare un disco? giusto. Visto che voglio dire, fa questo lavoro gratuitamente di traduzione, insomma. Mi sembra giusto. Allora, qui Mario Adinolfi, tu alle 8, credo, su Radio Yes parlerai di che? Della Sicilia? Di Berlusconi? Di Berlusconi. Sicilia, 5 Stelle, inevitabilmente. Di Berlusconi. Voglio fare una previsione che anticipo qui da te. Secondo me Berlusconi, se prova lo strappo su Monti, non ha i numeri. Sarebbe una cosa divertente. Ah, perché c'è la spaccatura per del popolo della libertà. Per dei suoi. C'è la spaccatura del popolo della libertà. Firmerei questa previsione. ma tu sei troppo ottimista dal tuo punto di vista politico su Berlusconi. Beh, Berlusconi sempre quando è sempre sottovalutato poi c'ha i colpi di coda e spesso ci ha azzeccato e ha avuto ragione in passato, o no? Speriamo io, abbiamo questa esperienza. Dal mio punto di vista ti dico sinceramente che a 76 anni lo vorrei vedere riposarsi, insomma, perché veramente può fare solo male a questo paese. Per ora va in Kenya. Vogliamo sentire anche Bersani, che ieri è intervenuta domenica in da Massimo Giletti a parlare di Berlusconi, ha parlato di populismo, ha parlato di un qualcosa che non va bene. Sono più preoccupato di questa posizione di Berlusconi attualmente, perché la dico così semplicemente: di populismi ne abbiamo già un bel po' in Italia, e vedere un centrodestra che si mettesse su queste posizioni, quelle che abbiamo sentito da Berlusconi, credo che non farebbe bene al paese. Insomma, Berlusconi è 19 anni che è in giro, ha governato gli ultimi 10 anni, ha governato più di De Gasperi, al record, più di De Gasperi, vabbè, come dire, mo basta. Mario Dinolfi, dobbiamo chiudere questo per il momento il bar di Radio 24. Voglio dire, come non chiudere al bar parlando di calcio. Sono molto nervoso per questa vostra vittoria ieri a Catania, visto che non avete bisogno di queste cose voi. Dai, Ale, c'è una frase del simbolo della Juventus, sì. Vincere non è mai importante, è l'unica cosa che conta. Sì. anche così, ma io non lo so, cioè non è che uno ha dato, non ha visto un fuorigioco, non so chi è che l'ha annullato, cosa è successo guardalini di Roma, lo Juventino di Roma si contrappone al romanismo, i romanisti lamentati il fuorigioco subito. Io sono felicissimo di averlo fatto. Bravo, la sportività di Adinolfi, evviva, viva Maria Adinolfi. Viva Bimbo Alieno, ci sentiamo dopo il GR delle 7. Volete dire la vostra? 02 4652 4492. Chiamateci e parlate con la segreteria telefonica di 24 Mattino. 02 4652 4492. E ricordate, Alessandro Milan vi ascolta. Vorrei proprio avere l'indirizzo dove andare a comprare i forconi in Sicilia. Ah, che bello caffè, pure in carcere osanne fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagni di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo sceltissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Ventiquattro Mattino. L'Italia si desta. Allora ci siamo ancora alle 7:21 minuti. Ben arrivati se siete arrivati adesso, se non vi siete svegliati alle 6:30 per ascoltarci dall'inizio. In ogni caso, benvenuti comunque. Allora, siamo pronti adesso a leggere il giornale, ricordandovi che alle 8:15 avremo il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando, nostro ospite. Palermo, dove come in tutta la Sicilia si apriranno le urne alle 8 per lo spoglio elettorale, vale a dire per la regione Sicilia. Si è votato ieri, ma si aprono le urne oggi dalle 8. Ma c'è un primo exit poll che dà a Palermo, nel palermitano, darebbe, bisogna usare il condizionale, il candidato del Movimento 5 Stelle in testa a 27% e rotti, ma staremo a vedere, ovviamente. Parleremo anche di centrodestra, primarie, quello che ha detto Berlusconi, vado, resto, torno, con Daniela Santanchè e il sindaco di Pavia, leader dei formattatori del Popolo della Libertà, Alessandro Cattaneo. I rottamatori stanno dall'altra parte. Questa alle 8:30. Ora andiamo appunto a leggere i giornali in edicola. Intanto i titoli dei quotidiani con le aperture. Il Sole 24 Ore, l'edizione del lunedì, apre sull'IMU, super aumenti fino all'ultimo, mancano 2 giorni per i comuni per adeguarsi all'IMU, e il Sole 24 Ore fa sapere che arrivano super aumenti. Molti comuni, la maggior parte, arrivano al massimo delle tasse possibili. Tra poco lo vedremo. Il Corriere della Sera:

sulla proposta tedesca, come dire, affannatevi, fate le elezioni, ma poi sappiate che l'Europa controlla tutto. Com'è che era, insomma, please relax. A che ora dobbiamo chiudere, Peter Biscapè? Ecco, tra un minuto? E va bene, allora c'è tempo tra un minuto di raccontare solo la storia che il Messaggero mette a pagina 15 di un greco, un giornalista greco, Kostas Vaxevanis, che ha trovato una lista. Per carità, lui ha detto non sono gli evasori, 2000 contribuenti greci, è la famosa lista Falciani, ricordate Falciani era quel hacker bancario poi ricercato da mezze procure che si era procurato tutta una lista di persone che avevano i conti all'estero. Questi sono 2000 persone greche che hanno i conti in Svizzera. Per carità, questo giornalista ha detto non vuol dire nulla. Hanno i conti in Svizzera, non dico che siano super evasori. Risultato, è stato arrestato per avere pubblicato questa lista. Poi è stato rilasciato dopo qualche ora, ma comunque arrestato. Devo chiudere? Juve che veleni, il titolo della Gazzetta dello Sport. Negato un gol al Catania, la capolista vince con una rete irregolare. Sai che notizia. Ci fermiamo qui. Ventiquattro mattino. L'Italia si desta. Eccoci alle 8:17 minuti, ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, vogliamo parlare di politica. Oggi molti degli occhi saranno puntati su quello che succederà in Sicilia, dove un quarto d'ora fa si sono aperte le urne per lo spoglio, per i voti delle regionali. Quindi al momento parleremo di ipotesi di voto, però alcune considerazioni si possono sicuramente fare. Le facciamo con il sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Buongiorno sindaco, grazie per essere con noi. Senta, una considerazione si può fare. Il 47% dei siciliani ha votato, vuol dire che meno della metà, un risultato a mio modo di vedere clamoroso, a suo modo di vedere? Assolutamente sì, un risultato clamoroso ma anche in qualche modo prevedibile, perché credo che in una regione come la Sicilia, che è abituata ad avere alte affluenze al voto, si assiste e si registra la morte dei partiti politici. Il dato è vero che i partiti politici tradizionali non riescono più ad essere punto di riferimento per le esigenze dei cittadini. Non è la prima volta che questo accade, che nel maggio sono stato eletto sindaco di Palermo col 74% dei consensi e la mia coalizione, i partiti che mi sostenevano, ha ottenuto soltanto il 14%. È il primo esempio del fatto che sono morti i partiti politici tradizionali, secondo lei, cioè sia al sindaco, sia alla sua elezione, sia la conferma adesso da questo alta astensionismo? La incapacità dei partiti di essere un punto di riferimento delle esigenze dei cittadini. Voglio ricordare un dato che sicuramente è forte: 60 punti percentuali ottenuti da me a Palermo, che è in Sicilia, rispetto ai partiti che mi sostenevano, manda un messaggio terribile che riguarda la fine dei partiti, quelli della Prima Repubblica, che sono finiti nel 92, e quelli della Prima Seconda Repubblica, che sono finiti nel novembre 2011, con l'uscita di scena di Silvio Berlusconi. Io credo che questo risultato siciliano, collegato a quello palermitano di qualche mese fa, manda un messaggio alla politica nazionale che è un messaggio chiarissimo. I partiti sono diventati strutture autoreferenziali incapaci di esprimere le esigenze dei cittadini. Ho capito, ma la politica come si fa? Cioè, non è che si può cancellare tutti i partiti, visto che tra sei mesi si vota in Italia? La risposta è veramente originale, è scritta nella Costituzione. Nelle Costituzioni c'è scritto che i partiti con metodo democratico determinano la politica nazionale. Il vero limite in questi anni, decenni di vita repubblicana è che non si è riusciti mai ad approvare una norma che stabilisce il metodo democratico nella vita dei partiti, con la conseguenza che la democrazia interna ai partiti si manifesta facendo nascere nuovi partiti, e questa proliferazione di partiti e di liste ovviamente aumenta la sfiducia nei confronti delle istituzioni. Senta, nel palermitano è un exit poll che però ovviamente forse lascia il tempo che trova, ma forse no, ci saranno le conferme oggi, sarebbe in testa il candidato del Movimento 5 Stelle al 27,46%. La sorprende questo? La sorprenderebbe? Beh, che so sommato al 53 che non ha votato, manda a tutti gli altri partiti il messaggio che rappresentano appena tutti insieme il 30%. Mm. Appunto, sarebbe. Ma lei sarebbe sorpreso da questa conferma? Cioè, lei, secondo lei, potrebbe addirittura il Movimento 5 Stelle esprimere il governatore? Assolutamente sì, sai, come la palla di neve. Quando la palla di neve parte, si sa quanto è piccola quando parte, non si sa quanto è grande quando arriva. In ogni caso, al di là della conferma o meno di questa dimensione, basta l'astensione dal voto per dire come la situazione è comunque tale da poter consentire di pensare un risultato clamoroso come quello che sembra possa profilarsi. Poi alla fine vedremo evidentemente qual sarà il risultato finale, ma quando anche non fosse il 27 il risultato finale, quello del candidato grillino, ma fosse 17, quindi, o se fosse 15, sarebbe già comunque un clamoroso. Unito, beh, certo. insisto, al 53 che non ha votato. Secondo lei, perché poi di elezioni in Sicilia non parliamo più, perché stiamo parlando ovviamente di ipotesi, c'è un rischio ingovernabilità, cioè che nessuno riesca a ottenere poi quelle maggioranze per rendere governabile la regione? No, non c'è un rischio di ingovernabilità, c'è la certezza dell'ingovernabilità, nel senso che con la legge elettorale siciliana, per come è stata costruita, per poter avere la maggioranza in aula, qualunque presidente sia scelto avrà bisogno non della sua coalizione, non della sua più un'altra coalizione, ma avrà bisogno di tre coalizioni. E lei comprende che tre coalizioni che sono presentate con programmi teoricamente diversi messi insieme diventa già la stessa ingovernabilità. Né c'è una sensibilità dei problemi della regione siciliana tale da poter immaginare che nasca una grande coalizione di emergenza regionale, perché mi sembra che l'emergenza vera è la qualità dei rappresentanti siciliani al Parlamento siciliano. E beh, se c'è sicurezza di ingovernabilità staremo a vedere poi che succede, perché se una regione intanto la crisi finanziaria in Sicilia è diventata una crisi economica drammatica, ed non bisogna certamente spiegare qual è la differenza tra crisi finanziaria e crisi economica. La crisi finanziaria sono gli errori di operatori finanziari, la crisi economica è la massaia che non riesce a farla spesso. Senta, lei oggi alle 9, tra poco quindi, sarà in aula di Tribunale a Palermo per la prima udienza del processo sulla cosiddetta trattativa. È un processo clamoroso perché siederanno tra gli imputati mafiosi e uomini delle istituzioni, alti uomini delle istituzioni, il generale Mario Mori, Giuseppe De Donno, Antonio Subranni, ufficiali dei carabinieri accusati di aver fatto quella trattativa. Perché intanto lei va in aula? Come sindaco, ma anche per altri motivi, oppure... No, io mi costituisco parte civile, rappresentanza della città di Palermo, l'ho sempre fatto fin da quando nel 1986, nel lontano 86, mi costituì parte civile nel primo maxi processo e in tutti gli altri casi in futuro, in sequenza ho dato disposizione all'avvocatura comunale di costituirsi parte civile in tutti i processi di mafia che si celebrano a Palermo o che riguardano episodi di mafia registrati a Palermo. Però che effetto le farà, sindaco, entrare in aula e vedere che sono seduti sul banco degli imputati dei mafiosi acclarati, Totò Riina, Giovanni Brusca, con uomini delle istituzioni? Non sembra una cosa un po' incredibile? La conferma di quello che dicevo 20 anni fa, e venivo insultato quando dicevo che la mafia è il volto dello Stato, lo Stato è il volto della mafia. Esattamente, la mafia è questo. La mafia non è un fenomeno criminale che sta fuori dallo Stato, fuori dalle banche, fuori dalla Chiesa, fuori dalla civile. La mafia, per essere mafia, ha bisogno di stare dentro lo Stato, dentro le banche, dentro la civile. E questa vicenda drammatica è due volte grave. La prima perché siamo in presenza di crimini mafiosi, la seconda perché siamo in presenza di uno Stato che avrebbe assunto il volto della mafia. Ma lei sta dicendo che entrando in aula reputa credibile il fatto che possano essere accomunati mafiosi e questi uomini dello Stato? Cioè, rende, secondo lei, è credibile questa accusa? Guardi, io non faccio il magistrato, io chiedo che i magistrati facciano e accertino la verità. Io so, ma per dirla con Pasolini, io so, ma non ho né prove né indizi, che vi fu una trattativa tra Stato e mafia. Io so, ma non ho prove né indizi, che Paolo Borsellino sarebbe stato ucciso perché gli sarebbe opposto a quella trattativa. Tanto mi basta, da cittadino, da persona pensante, da sindaco, da espressione di una comunità, chiedo che i magistrati trovino le prove e gli indizi. Ma lei dice io so in base a che cosa? Perché sa, gli indizi e le prove in questo caso sono fondamentali. Ma sa, gli indizi e le prove sono non fondamentali, sono essenziali, non sono di diritto, ed è compito dei magistrati. Però i magistrati, per trovare le prove e gli indizi, devono essere messi in condizioni di trovarle. Ecco la ragione per la quale ognuno faccia la sua parte. Noi cittadini chiediamo verità e giustizia, io in rappresentanza dei cittadini chiedo verità e giustizia, e i magistrati accertino se vi sono le prove e gli indizi. E quando comunque entrerà in aula, lei riuscirà a distinguere dove sta la mafia e dove sta lo Stato? Ma guardi, dove sta la cultura mafiosa non c'è bisogno di entrare in aula per scoprirla. Dove sta il reato mafioso spetta al tribunale accertarlo. Mi faccio fare un'ultima domanda su quello che è successo per una sua assessora, Agnese Ciulla, del comune di Palermo, che ha dovuto fare un comunicato di questo tipo sulla possibilità che ci fossero delle assunzioni al comune di Palermo, a parte che ha smentito questa cosa, ma comunque ha detto in un comunicato stampa: sappiate che non si accettano raccomandazioni, segnalazioni e pizzini, non sono graditi. Siamo a questo punto nel 2012, bisogna fare un comunicato stampa per dire che i pizzini e le raccomandazioni verranno respinte al mittente? Beh, intanto dirlo non fa mai male, serve a ribadire appunto un'esigenza etica. E poi nello specifico si trattava di una selezione curata peraltro dall'Università degli Studi di Palermo, una selezione per degli stage dove le persone si presentavano con il libretto di lavoro, assumendo che qualcuno gli avrebbe detto che quello non era uno stage formativo ma era l'assunzione. Ecco, io credo che bisogna smettere di scherzare con il diritto dei cittadini e con il lavoro come diritto e non come favore. Però c'è bisogno di dirlo, insomma, ancora. Non si accettano raccomandazioni. Ogni tanto dirlo non fa male. Sì, guardi che lei ha parlato di uscita di scena di Berlusconi, ma le risulta che Berlusconi non è uscito di scena. È uscito dal governo. Sì, ma un'espressione forse impropria, se vuole, forse poetanamente, spesso un desiderio. Ah, è spesso un desiderio, però non si sa. Lei l'ha capito che farà Berlusconi dal suo osservatorio ben distante, insomma, sia politicamente. Sarei rasserenato se l'avesse capito lui. Temo che neanche lui l'abbia capito cosa voglia fare. Ma intanto vedremo nei prossimi giorni. Intanto buona giornata al sindaco di Palermo, Leo Luca Orlando. Grazie per essere stato con noi. Ovviamente sarà una giornata importante per quel che riguarda la Sicilia. Radio 24 la seguirà passo passo con lo spoglio che è iniziato, lo spoglio delle elezioni regionali è iniziato alle 8. E quindi non ci sono ancora dati ufficiali, si parla solo di questo exit poll su Palermo fatto da una TV locale che darebbe il candidato governatore del Movimento 5 Stelle Cancelleri in testa al 27,46%, solo sul palermitano, ed è un exit poll. Però i primi dati verranno, immagino, in mattinata, e Radio 24 vi terrà informata durante tutta la giornata. Visto che abbiamo concluso la chiacchierata con Luca Orlando parlando di Silvio Berlusconi, tra poco, dopo la pubblicità del meteo, ci concentreremo proprio sul centrodestra. Cosa sta succedendo? Ci saranno queste primarie? Che fa Alfano a questo punto, dopo che Berlusconi ha detto prima per il bene dell'Italia faccio un passo indietro, poi dopo la condanna in primo grado ha detto no, non posso più fare un passo indietro, devo riformare la giustizia? Ne parleremo tra poco con Daniela Santanchè e con il sindaco di Pavia, che è anche il leader dei formattatori del Popolo della Libertà, Alessandro Cattaneo. Se volete anche intervenire in diretta, 800 24 00 24, tra poco. Siamo qui alle 8:33. Allora, che succede nel centrodestra? Che succede all'interno del Popolo della Libertà dopo che Berlusconi prima ha detto per il bene dell'Italia faccio un passo indietro, poi c'è stata una condanna in primo grado a 4 anni, credo, ai suoi danni, venerdì, e quindi sabato con un dietrofront ha convocato una conferenza stampa, ha detto non posso più fare un passo indietro, adesso devo riformare la giustizia. E oggi i giornali, se li avete visti o se avete ascoltato la rassegna stampa di prima, titolano tutti un PDL spaccato su Berlusconi. Così è il titolo del Corriere, così è il titolo del Messaggero, così è il titolo dell'Unità, così è il titolo del Giornale anche, il PDL va alla conta, così è il titolo di Repubblica. Insomma, un PDL che sembra diviso su questa conferenza stampa di Berlusconi. Comunque ne parliamo con Daniela Santanchè. Buongiorno e benvenuta. Buongiorno a lei e a tutti. Saluto anche Alessandro Cattaneo, che è il sindaco di Pavia. Buongiorno Cattaneo. Buongiorno, buongiorno. Ma è identificato, è passato, diciamo, già sui giornali come il leader dei cosiddetti formattatori del Popolo della Libertà. Per dirla brutalmente, sì. Da una parte hanno i rottamatori e voi avete i formattatori. Ecco, giornalisticamente, con una sintesi un po' truce, diciamo che siete stati classificati così. Partirei da lei. Che ne pensa lei, Cattaneo, di queste ultime 72 ore, come dire, un po' convulse all'interno del Popolo della Libertà? Lei capisce più il Berlusconi del faccio un passo indietro per amore dell'Italia, o il Berlusconi che dopo la condanna dice no, a questo punto devo rimanere? No, io con tutta sincerità preferivo Berlusconi di 3 giorni prima, in cui ancora una volta, spiazzando tutti, continuava in quel percorso già iniziato peraltro in un anno di scelte, prima quella di mandare avanti un segretario politico nel PDL di 40 anni come Angelino Alfano, poi anche il gesto unico nella storia italiana di fare un passo indietro per mandare avanti un altro presidente del Consiglio. Poi è successo certamente quello che è una pronuncia della magistratura, ancora una volta sicuramente eccessivo e anche di parte, questo dobbiamo dircelo, però ecco, la reazione istintiva, probabilmente anche dal punto di vista di Silvio Berlusconi in qualche modo comprensibile, riporta caos all'interno dell'area di centrodestra, che invece avrebbe tutto bisogno di rimettere ordine. E sulla cura rispetto alla diagnosi, perché la diagnosi mi sembra, su quella siamo tutti d'accordo, che il PDL è agonizzante, sulla cura però da mettere in campo abbiamo idee diverse. Io per esempio sono uno di quelli che dice che spalancare le porte al nostro popolo, al popolo di centrodestra, facendo scegliere lui il leader, aprendo le porte delle segreterie di partito che sono state per troppo tempo chiuse, è l'unica soluzione possibile per ritornare ad avere fiducia nei nostri elettori. Quindi a lei piaceva... Nel frattempo ne abbiamo persi milioni, siamo dimezzati come percentuale. Lei dice: mi piace più il Berlusconi, al di là della condanna, che tra poco ci arriveremo, anche lei la definisce una decisione di parte, più il Berlusconi che era pronto, come aveva già fatto altri passi indietro, mandando prima Alfano e poi facendo il passo indietro accettando il premier Monti, diciamo un governo tecnico. Daniela Santanchè è su una posizione ben diversa. Daniela Santanchè è definita la passionaria, no, del ritorno di Berlusconi. Lei come stava all'ESMO in questa conferenza stampa? Era contenta, immagino, gongolante del Berlusconi combattente che piace a lei? Ma guardi, non si tratta di essere gongolanti o contenti, si tratta di avere una visione del paese e della politica che coincideva con le parole dette da Silvio Berlusconi, perché non soltanto per portare alta la bandiera del garantismo, ma soprattutto per quei tutti altri temi economici che mi sembrano fondamentali per una ripresa del paese. Berlusconi ha parlato della troppa tassazione partendo dalla casa, dall'IMU, e oggi vediamo che ancora dopo molti mesi non ci sono i conteggi chiari, e ha ricordato il presidente Berlusconi che la tassazione è più alta sulla casa che abbiamo in tutta Europa. Ha parlato della politica europea dicendo che non possiamo assolutamente, voglio dire, cedere tutta la nostra sovranità per il cancelliere Merkel. Sì. Ha parlato, cioè mi sembrano questi temi. Ma l'ha fatto con i toni suoi, cioè ha detto la Merkel e Sarkozy mi hanno ucciso politicamente. E poi, ma Berlusconi è Berlusconi, poi Berlusconi può anche per un attimo ascoltare consigli di chi vorrebbe un altro Berlusconi, ma Berlusconi è quello dell'altra sera. Berlusconi è lì, allora, finora è stato imbrigliato, cosa lo teneva imbrigliato, che non, no? Sembrava un Berlusconi più disposto a miti consigli, poi è venuto fuori, dice, l'hanno lasciato, è venuto fuori il Berlusconi vero sabato scorso. Ma guarda, io credo che in questi 18 anni il presidente Berlusconi ha dato il meglio per il paese quando andava avanti su quella che è la sua strada e di nessun altro, nel senso che un uomo capace di prendere decisioni e di parlare con quello che veramente pensa sia il bene dell'Italia e degli italiani. Pensare che Berlusconi possa diventare un'altra persona, io illusione, trovo che questo sia un grandissimo errore umano e politico. Però mi dica due giudizi secchi su, allora, Alfano, lei dice, si dovrebbe dimettere, ma perché? È messo lì da Berlusconi? Voglio dire questo, cioè, non c'è una questione di persone, ma di principi. Che Alfano sia assolutamente, voglio dire, una persona capace. Sì, questo nessuno lo mette in dubbio. Ecco, questo nessuno lo mette in dubbio. Però Alfano, perché io ho detto questo? Perché Alfano aveva una linea politica che era completamente diversa, no? Cioè, ancora tutt'oggi, che è completamente diversa rispetto alle parole e al programma, perché ricordiamoci che la conferenza stampa Berlusconi ha annunciato il suo programma politico, dove mi sembra che la linea sia completamente altra. Mi sembra anche che siano finiti i vertici ABC, che io ritengo che ci abbiano fatto malissimo quella fotografia e quei vertici. Quindi non ha più senso il partito di Alfano. Beh, già, anche detto il PDL non esiste più. Il partito è di tutti, poi c'è chi ha ruoli più importanti e ruoli meno importanti. E allora oltretutto anche ruoli nominati dall'alto, perché vede, per me deve finire per chiunque che si scelga in quel modo, non è giusto, perché noi parliamo sempre di merito, parliamo sempre di partecipazione, parliamo sempre di consenso e poi viene nominato segretario in quel modo, è sbagliato per Alfano prima di tutto. Allora le primarie hanno senso o no? Perché anche qui non si capisce, sa cosa fa Berlusconi, ma lei lo sa meglio di me, se ne va in Kenya, cioè domani c'è il comitato, il partito dovrebbe stabilire le regole delle primarie e Berlusconi che fa? Se ne va in Kenya, guarda, è sul giornale c'è scritto, come di dire, lei, no, se ne va in Kenya, non va in Kenya. Lo scrivono allora, i giornali, lo scrive anche allora, il giornale a pagina 3, dice fatti vostri, io me ne vado in Kenya. Il giornale può scrivere tutto quello che vuole, se lei pensa che io sappia, e allora io le dico che domani Berlusconi non va in Kenya, neanche dopo domani. Domani è martedì, non va in Kenya, mercoledì sarà a lavorare, non va in Kenya, giovedì poi mi sembra che ci sia un giorno di festa e c'è un weekend. Andrà al weekend allora, fa il weekend. Adesso questa settimana ritengo che il presidente sia a lavorare, perché l'ha detto l'altra sera in maniera molto chiara che il suo tempo lo dedica al lavoro, alla politica. Io dico domani c'è il tavolo delle regole, benissimo, capiamo bene, perché capisce, adesso le faccio io una domanda, se il governo cade sulla legge di stabilità, facciamo le primarie in 15 giorni. C'è questa possibilità. Possibilità. Uno scenario, però non è un caso. Ecco, mi faccia chiedere Alessandro Cattaneo anche questa cosa del sostegno a Monti, che poi è l'elemento fondamentale in realtà di tutto questo, perché l'occhio dello spread e l'occhio dei mercati ci guata e ci guarda. Cattaneo, che ne pensa dell'idea del sostegno a Monti? Va mantenuto oppure, come ha detto Berlusconi, questo governo non piace ai nostri elettori e daremo battaglia e sta aumentando la diseguaglianza sociale? Guardi, questo tema del sostegno a Monti ci sta dilaniando e soprattutto ci sta facendo perdere credibilità, perché noi non possiamo votare in Parlamento i provvedimenti di Monti e poi uscire a dire che assolutamente non ci piacciono, che vanno cambiati. Poi permettetemi, io parto sempre, lo faccio un po' per carattere, per modo di essere, a guardare con un po' di autocritica quello che io non sono riuscito a fare. Lo stesso dovrebbe fare il PDL e i suoi rappresentanti. Ma scusatemi, ma l'IMU, guardate che era una tassazione che era stata reintrodotta all'interno del quadro del federalismo fiscale, giusto e sacrosanto, che dà più autonomia e responsabilità agli enti locali. Dal nostro governo era già in un'impostazione diversa, ma allora non diciamo che non ci va più l'IMU, diciamo che noi avevamo un'idea diversa di IMU. Cominciamo a essere responsabili a questa cosa che l'IMU la togliamo, ma non ci crede più nessuno, voglio dire, adesso con tutto rispetto. Io non riesco ancora a capire come facciamo noi a andare su queste posizioni quando arriviamo da 4 anni di governo, 3 e mezzo, in cui certe cose le abbiamo fatte, dovremmo dirlo e raccontarle, altre non le abbiamo fatte, dobbiamo dire il perché. Ma insomma, ma un'altra cosa, il redditometro, l'altro giorno citato da Berlusconi, è un'invenzione di Tremonti. È un'invenzione di Tremonti. Allora diciamo noi stessi al nostro interno perché non siamo stati in grado di fare certe cose. La rivoluzione liberale. Io sono uno di quelli per cui è sceso in campo per la rivoluzione liberale e con coerenza nel comune che amministro cerco di farla, invertendo il trend della spesa pubblica, tagliando tutto ciò che posso. Tanti nostri amministratori, a cominciare da alcune regioni, non l'hanno fatto, la spesa pubblica è aumentata. Queste sono cose che fanno perdere credibilità e adesso non basta tornare in campo a ridire le stesse cose che dicevamo 10 anni fa. Anzi, su questo Daniela Santanchè, devo dire, non è, cioè non sta parlando un leader del Partito Democratico, cioè come ben sa lei Alessandro Cattaneo, che mette in luce queste cose, è del Popolo della Libertà, uno di questi giovani che vuole un cambiamento. Come risponde alla mancanza di autocritica, al dilaniare con questo discorso su sostegno a Monti o no, lei Daniela Santanchè? Ma tanto, guarda, ritengo che è molto utile, perché ci hanno sempre accusato tutti che non c'era dibattito all'interno del nostro movimento, all'interno del nostro partito, che comandava uno solo, che eravamo fatti con lo stampino, che tutti pensavamo la stessa cosa. Ben venga questo dibattito per trovare una sintesi. Io sono d'accordo col sindaco che dice ma facciamo attenzione perché qua deludiamo. Sì, cioè deludiamo se continuiamo a stare con Monti, perché i sondaggi esistono. 85% del nostro elettorato è contro Monti e la sua agenda. Poi paragonare l'IMU all'ICI mi sembrano due mondi completamente Sì, ma se fate diversi. Cadere Monti, facciamo così, andiamo a sentire le informazioni sul traffico. Io vorrei ripartire però da lei su questo. Se fate cadere Monti, io al di là del fatto, lasciamo da parte un attimo l'Europa come se non fosse importante, invece è molto importante l'Europa, i mercati eccetera, ma non lo so, è così sicura, da qui ripartiamo, che i sondaggi già che sono un salasso di voti per il centrodestra vi premierebbero facendo cadere Mario Monti tra poco. Allora siamo con Daniela Santanchè, con Alessandro Cattaneo, che è il sindaco di Pavia e leader dei formattatori del Popolo della Libertà, a cercare di capire cosa succede nel centrodestra dopo le dichiarazioni delle ultime 72 ore di Silvio Berlusconi. Sentirei, prima di tornare alla domanda sul sostegno al governo Monti, Luca da Caserta ci ha chiamato all'800240024. Luca. Buongiorno a tutti. Niente, io sono l'esponente del PDL locale qui a Caserta, ho avuto esperienze al mio comune, nonché anche candidature provinciali. Secondo me l'unica realtà del centrodestra è Silvio Berlusconi, perché venendo meno lui viene meno il PDL, a mio avviso, perché si è visto che in questi anni... Infatti per molti, caro Luca, il partito, la stessa Santanchè l'ha detto in interviste, è finito. Lei condivide oppure no? Finito proprio no, questo dipende da Silvio Berlusconi, ma certamente un rinnovamento forte ci deve essere, soprattutto perché siamo in un partito di nominati, non c'è collegamento tra i parlamentari e la base del partito, questi vanno a Roma e poi noi non sappiamo niente di cosa fanno e tutto il resto. Silvio Berlusconi la prima cosa che deve fare è deve fare una legge elettorale in cui noi possiamo scegliere chi ci deve rappresentare, perché poi venire a sapere queste primarie che si devono fare, poi i candidati sono candidati che non hanno avuto neanche l'esperienza regionale di chiedere la preferenza, si candidano a diventare leader nazionali, ma insomma lei vede un partito poco strutturato in questo. Grazie no, Luca, comunque lei dice il partito è non può prescindere da Silvio Berlusconi. Grazie Luca da Caserta. Tino da Pescara, buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Io chiamo, allora volevo dire innanzitutto che sono non sospettabile, io sono uno dei quei votanti dell'era Berlusconi all'inizio, negli anni 92-93. Beh, 92, 94, votava Berlusconi ancor prima che fosse in politica, sì, dal 94. Sono stato uno di quei fessi, diciamo così, che si è fatto ingannare da un personaggio come Berlusconi. Perché si sente ingannato? Mi sento ingannato perché Berlusconi non solo non ha fatto quello che doveva fare, ma si è dimostrato un personaggio borderline in tutti i settori, da quello che ha fatto prima come imprenditore a quello che ha fatto come politico, il buffone in giro per il mondo facendo le corna o facendo gli scherzetti Mi pare di capire che lei ha cambiato molto idea e attualmente guardi, non si potrebbe fare altrimenti. Se noi ancora oggi sentiamo un personaggio come la Santanchè Sì. Ancora che praticamente parla che adesso tutti gli uomini del PDL, i cosiddetti badanti del Premier, fino a qualche tempo fa, oggi hanno delle idee contrastanti, vuol dire che hanno aperto la stalla, sì, e ognuno cerca di ricollocare. Sì, sì, hanno aperto la stalla perché questi sono quei personaggi che praticamente prima erano nel gregge. Vabbè, ma lei stalla, gregge, insomma, un po'. Così, vabbè, Tino, guardi... Daniela Santanchè l'ascolta, vuole, non so, adesso prima che le mettiamo un bavaglio, così non potrà più parlare, fino ad allora potrà parlare. Daniela Santanchè vuole. Io queste cose personali poi mi portano fuori dal tema. Comunque, vuole replicare a Tino da Pescara? No, ma guarda, io siccome sono proprio contro il bavaglio, perché sì, trovo che ognuno possa e debba esprimere la propria idea, ne ho assolutamente rispetto. Dico magari all'ascoltatore che, voglio dire, non è attento su certe questioni, perché dire di Silvio Berlusconi affari o quant'altro, come nella telefonata di prima, di parlare di preferenze, ricordo che gli scandali, Fiorito aveva preso non so quante 27.000 preferenze, altri ne hanno prese in Regione Lombardia, Zambetti, quante preferenze, per cui insomma le preferenze sono molto, sì, essendo, molto essendo in Italia qualsiasi sistema elettorale, purtroppo siamo poi pur sempre italiani, io dico così. No, però mi faccia fare questa domanda su Monti, perché è convinta davvero che bisogna togliere, staccare la spina, come si dice brutalmente? No, praticamente a Monti, ma no, assolutamente, nel senso che secondo me abbiamo sbagliato a tenere lì Monti votando ed essendo condividendo, voglio dire, questa maggiore tassazione che è poi l'efficacia del governo Monti, perché tutto ciò che annuncio, tutto ciò che, scusi, sviluppo e annuncio, tutto ciò che tassazione invece è legge dello Stato, quindi forse queste osservazioni avremmo dovuto farle prima. Adesso staccare la spina, siamo ormai a novembre e comunque si va a votare, bisogna andare a votare, certamente non votare più, cioè come ad esempio questa legge di stabilità, che sono tantissimi soldi in più di tasse per le famiglie e le imprese, non votarli e quindi essere determinanti in questa che è la scelta sulla legge di stabilità. E quindi volevo dire, solo no, dire una legge cosa, stabilità. Mi fa male quando sento il sindaco di Pavia, sì, perché questa è una questione di fatti e non di parole, paragonare l'ICI all'IMU. Ricordo che l'ICI era sulla prima casa, che l'IMU è anche sulla seconda casa. Sì. Ricordo le aliquote dell'ICI e quelle che ci sono sull'IMU. Comunque, ma no, era il principio tratta... dell'autocritica. Cattaneo, sì, sì, lei. Ma guardi, l'autocritica è bene che la facciamo, ma vede, quello che succederà oggi in Sicilia, sì, non si potrà poi non far ragionare. Cioè la vittoria perché... possibile di Beppe Grillo addirittura. Ma metta la vittoria chissà possibile, cosa alla quale io non credo, ma che oggi tutti i giornali riportano come se il candidato di Grillo fosse al primo posto, sì, no, tra i candidati in Sicilia. Allora io dico, stiamo attenti al di là delle divisioni sane che ci possono essere all'interno del nostro movimento, ma mettiamo sempre al centro gli elettori, perché sennò facciamo considerazioni politiche che ci portano ancora più lontani dalla gente. Vediamo se Cattaneo, lei è pronto, al di là se vuole replicare alla Santanchè sul tema ICIMU, è pronto nel caso a candidarsi alle primarie? Domani si vedranno le regole, se mai avranno ancora un senso nel PDL. Ma innanzitutto le primarie hanno e come un senso, perché io sono d'accordo con l'ultima dichiarazione di Daniela Santanchè, cioè che dice che alla fine i cittadini e i nostri elettori devono essere gli unici che devono legittimare il prossimo leader e quindi il disegno politico che vogliamo dare al centrodestra. Quindi ripartiamo con coraggio, con fiducia, da andare a chiedere loro un'indicazione, ci confronteremo finalmente sui contenuti e non solo sui contenitori o su leader, che comunque scordiamoci la possibilità di replicare, sì, Berlusconi. Lei dice questo, intanto scordiamoci, e scordiamoci anche che possa essere Berlusconi. Se prendiamo la ricerca di un nuovo Berlusconi, è impossibile. Berlusconi, Berlusconi è Berlusconi, è questo, sì. Dobbiamo invece andare verso un soggetto politico diverso. Diverso. Su questo io credo che ci stiamo però davvero confrontando su due visioni,